corretto che deve avere 4-5 denunce per fargli qualche cosa, per pagare i danni e tutto quanto. Non immagini nulla, non hai capito. Sì, che io l'avrei fermato al padrone, a lui l'avrei picchiato. Non mi credi, non hanno fatto niente, benissimo, ora andando in chivo. Allora, che farò, ti crepo. Ti ho presentato, adesso ti crepo. Ma lo sai come li avrei fatti tutti e due? Ma a colpi mi ero preparato con un mosso di roccio, di chi si mette. Ma non con un coso immarrato, me. Cappa a colpi, lo sai come li avrei fatti? Ma tu il padrone è un tossico, ma sai che non ti puoi burlare di essere qui. Sei a tutti i da lontano. Poi, trovano il capo, non ne sanno gestire certi cani. Ce l'hanno per proteggerli, questi tussi, ce l'hanno per proteggerli perché spacciano, fanno. E i cani praticamente li proteggono. Poi se ci va la polizia, il cane dice, vabbè, te lo sparano. Giustamente vanno a sparare. Che ha parlato del padrone? Allora, a tutti e due abbiamo avuto morte, ma a tutti e due li avrei pestati a sangue. Hanno fatto un'arrettata, io l'ho visti, un'arrettata che hanno fatto in una casa, a televisore l'ho visto. Si sono entrati e c'era questa famiglia, sembrava una famiglia normale, però c'erano bambini piccoli, dell'età anche del tuo, eccetera, eccetera. E praticamente ci avevano nascosta droga da tutte le parti. Tutti i cani antidroga hanno usato subito il punto, ne hanno trovato nel coso del contattore, nel bagno, da tutte le parti c'è la droga, c'erano dei vasetti camuffati, cose con fiori, roba del genere, dentro c'è la droga. No, che mi ha pigliato di cazzo, mi ha flappato la terra in mare. Natalino non c'è più. Sì, sono qui, è che è venuta una persona per portarmi della roba e sono dovuto andare a aprire, capito? Appagata. Guarda, adesso non mi sono ingassato, mi sento benissimo, mi sento. Il maracchino è muto, ma mi sento benissimo. È la prova, ciò. Perché l'ha sparato, lo stavo mettendo in terrazzo, che cazzo te... Perché l'ha sparato? Il cane si stava avventando, io non vedevo far morsicare da lui. Ah, l'hai riparato, cane? Sì, il poliziotto l'ha sparato. Ha fatto bene. Guarda, ha fatto benissimo. Oh, c'è un baracchino muto, ma poi mi sento benissimo. Come muto, tu? Muto. Sta prendendo colpi. Cioè, però io mi sento bene, non ho problemi. Ah, battimento zero, cioè. Sì, sì, ho battimento, però ripeto, non ho nessun tipo di problema, poi mi sento benissimo. E stanno parlando dei tuoi vicini? Lo so. Sul 23. No, ma io non ho problemi, io mi sento lo stesso, ma non ho nessun tipo di problema perché... Sì, rimane muto, la 48, cioè, rimane muta, però mi sento. Ho capito, come lo ti dico la QRM? Ah, appunto. Avanti, la testa. Ma pretendo, c'è che è vero, lavoro per più. Perché dice che andato a fare una cosa, andato. Andato a fare una cosa. Adesso come stai usando i baracchi, non so. Ma la 48 originale. Sempre quello là. Ma non è... Ma è, diciamo, toccato, là. Ma non l'ho toccato, è originale. Ma cosa? C'è una microfonia allucinante. Perché c'è l'MP4. Adesso al massimo è l'MP4. No, è a 7. E da 7 a 10 non è che cambi modo. No, mi guarda, ti mando una foto, non mi credi. Perché la cosa, tu mi dice, di quelli che poppano forte. quanti volte sei uscito adesso? Ah, ho sbagliato, ho fatto uno sbaglio. Mettiamo un po', eccolo qua. Con quanti volte hai scelto quell'apparecchio? Ho 5 watt. Quanto vuoi che esca? Ah, però va bene. Originale, Emmy, non l'ho toccato io questo. Però quello che si è più uscito bene, io mi ricordo quando mi chiamava mia moglie, che stavo tornando al lavoro, uniamo dell'azione che va via, con le MB più 5. Con le MB più 4 c'ho. E lui è, mi ti ho mandato la foto, mi pare. Per farlo vedere. E il coso, il cavolo si chiama, è più ricercato. Come te lo dico subito. Precision Series, ti sei uno dei più buoni, me. Sì, ma riconosci lui se ne è più 4, Antu. Già visto, non ti sei sbagliato. Quello che ne era tutto. Uno due, ne ho. Uno ha malato una persona, e uno ha malato Natalino. Questo che sto usando ha malato Natalino. Non l'ho mai venduto. Ma quello lì è modificato. Non lo so. Non lo sai. Se avevi più 4 non esci così, no. Fatta lì. Zio Natalino ci ha messo le mani lì. Come? Sempre quello lì. Solo che ha stato battato per il 48. Tutto lì il discorso, capito? È stata fatta la cosa per battere il 48. L'altro non si può stare. Se avevi più 4 non nasce per il 48. Ha gli stessi attacchi dell'ARA 48. Ma vuol dire che era per un altro apparecchio e lui gli ha fatto gli attacchi omologati sui, capito? Questo lo stesso ce li ha invertiti perché è attaccato a questo. Però anche questo non è stato modificato, lo sai perché? Perché io non l'ho toccato lo spinotto suo, c'ha la prolunga, gli ho fatto la prolunga a questo io. Siccome c'ha il cavo corto l'MB più 4, no? Allora io gli ho fatto la prolunga e l'ha giocato l'attacchi Maghicciu. Però lo spinotto suo è originale. L'ha fatto, sì, ho capito. La modifica per metterlo anche nell'altro palazzo. Sì, infatti, se mi capita uno di quelli come l'Alan 48, ne tolgo la prolunga e l'attacca all'Alan 48. Quindi quello lì adesso va bene nel mio anche. Se addirittura avevo la prolunga, attaccarlo nel 440 l'ho attaccato ed era una bomba. L'hai venduto il 440? Sì. Ti ha aggiustato un dato, ma cuzzato, dopo devi venire. E cosa vuoi? Collaborazione con il figlio. Mi basta questo. Fate voi bis. Sì, se ti basta quello, ma almeno un lato di riserva la televisione, bella, che se si faccia uno, verrà. C'ho l'omologato qua, quello piccolino, solo che su Macarruccio anda. Poi c'è giocato, lì ci sono portachiavi. Infatti, va meglio quello che ho per la macchina, quell'Intech 300 rotti FM, come ti cavolo si chiama. Quello va bene di brutto, allora sai quanto pompa quello. Ho avuto anch'io quello lì, la carica, ho attaccato il microfono amplificato e si cava un bel. No, il microfono suo originale c'ha, il mio. Ma va benissimo, ragazzi, la macchina è una bomba. Sì, ma l'autorata non si sente con un microfono normale, invece con quello amplificato può fare più. Ma per la macchina va bene. Poi chi ne usa? Non ne sto usando neanche. Poi macchina la se ne pure dei miei rifiuti. E ma è sacco tutto il piatto blu e buonanotte. Ehi, c'è Bruno che ce lo mette, io se vado lontano già me lo metto perché è meglio averlo, capito? Adesso domani vado a vedere se trova Bruno, così almeno proviamo la macchina se funziona bene domani mattina. Qual è la macchina? Tu? Eia, domani la provo a vedere. Oggi come l'ho messo. sei morto, è andata bene subito. L'ho portata da dove l'ho aggiustata fino al parcheggio e non ha sgarrato un colpo. Con Franco hai fatto? No, da solo ero. Ma se ha smontato nel serbatoio come sei fatto? Non ho smontato il serbatoio. Ma prima poi c'è dal filtro. Cioè, dal filtro della raffata, una pompa, giravo il quadro e pompava fuori al bidone. Cazzo, quasi due bidoni grossi, cazzo, era bene, guida. Mancava un'attacca al pieno, praticamente. Cazzo, gli altri non hanno fatto un po' di gasolio. E quello lì, il gasolio, dove l'hai buttato? No, l'ho lasciato lì, l'ho lasciato, che si lava i pezzi, quello col gasolio. Tanto per la macchina non lo puoi usare perché c'è acqua in mezzo, è un gasolio sporco, pucci, cazzo. Quello del fornitore era bello limpido, no così, chi era scuro e in più era tutto pieno d'acqua, pucci, cazzo. Già è brutto di su, è sporco di suo il motore diesel, mamma mia. Già mi cucciando, anda a salutare Gianfranco, mi sono gubesso, perché hanno fatto una deviazione, invece di prendere la strada che dovevo prendere ho preso un'altra strada e mi sono perso, cazzo. Ce l'avevi Google Maps? Ehi, cosa Google Maps? Ormai vivo in Rab, in Chivi, e ti scendo a Cintino. Non si entra più dove siamo entrati noi con la gita. Ehi, ma c'è una strada, hanno fatto una deviazione, hanno fatto un casino, hanno fatto in chissà rotonda, ha chiuso il guardato della strada di Bocciudorra, no, hanno fatto un casino lì e ho sbagliato strada perché dovevo prendere quella per Alghero, non quella per Sintino. Ma certo. Sì, tu hai sbagliato, però la deviazione, praticamente c'è la rotatura e tu devi girare tutto attorno alla rotatura e andare verso Alghero. Infatti, invece io ho girato prima e stavo andando verso Stintino. Infatti da qui ho giocato Ragocci, Campanella e me ne sono tornato. Cazzo, un casino qua. Già mi è costato. E vabbè, andrò a salutarlo un altro momento. Io già ce l'ho su internet. E anche io ce l'ho su WhatsApp. Io sono andato da Franco perché la mia stava andando a colpi la macchina. Mi ha fatto il check-up e mi ha detto che praticamente poteva essere l'umidità che aveva inumidito la bobina, perché adesso le candele hanno una bobina per ogni candela, e me l'ha resettata la macchina. È andata bene per 2 o 3 giorni e poi di nuovo ha cominciato a campare. Allora il telefonato e mi ha detto: già sono bloccato sopra la casa, bloccato, non riesce a muovere, ho un dolore alla schiena che non mi fa manco muovere, non mi posso inchinare, niente. Sentiamoci la prossima settimana e lo facciamo. Oggi la Travagliente, per esempio, va via la macchina piena, l'officina piena. Cazzo, Walter Lumates impegnato. Sono dovuto andare a fare quel lavoro lì, lo sai dove? Al rifornitore di... che c'è... Canica. Quello lì c'ha il gasolio pulito, e infatti io la rifornisco sempre lì, più da altri posti. Quando devo andare con il gasolio prima da boiando, non mi butti più. E perché non lo faccio il gas? Lì gatto, è di lusso, sia per il gas che per il gasolio, la benzina, cazzo, ma quando vanno i ridicelli viene deve è un casino. Sì. No, non lì, dove l'ho messa io c'avevano le cisterne piene di acqua, deve essere. E poi il gasolio era sporco. C'erano proprio le cisterne sporche. Sicuramente alla fine ne ha tirato tutto quanto l'avanzi che c'era là sotto, il fondo. Roba di danno. E manco mai non ti ha bloccato il motore. Poi, se no guai. Ma non è così bloccato prima già. Adesso magari con i sistemi nuovi, no, però prima già faceva danno. Prima passava tutto. Magari la tarina ancora ce l'ha di vecchia concessione la macchina, perché c'è già un po' di anni quella la tarina. No, ma adesso si blocca. La mia di canta e poi c'è pure di riccata, ma rasucci, cazzo. E subito mi sei sciurato il motore. Si spegne, cazzo, di colpo. Quando è così. Cazzo, non sarà più fatta la manutenzione. Tutto l'olio a terra, tutti i filtri nuovi. Cazzo, lo filtro della nappa deve essere, però non l'hanno in buccia, bastardo, col sergioidi, mimì. E già mi vede più lì. Con la nafta la dovrei cambiare, perché come era sporca la nafta, ma era sporca. 41 euro solo chi sono è cucciato. Il filtro della nafta, tanto. Guarda l'ora, cazzo, è un bel grande quello che ho io, il filtro. È tutto di ferro, cazzo. 41 euro il filtro della nafta. E ma vado là a farmi la manutenzione quando la devo fare. Vado a quel fornitore lì e mi già mi la parte chi sono. Il mio, quello del gas, costa 30 euro. Il mio 41, quello del gasolio. Che una volta non me l'ho cavato più del gasolio, del camion, cazzo. Cammino e ho fatto la strisciata di tutta la strada, guarda, poi mi sono fermato vicino dove c'è un tombino, perché dove mettevi i botti c'era spruzzo. Era rifetto sul filtro, me l'avevano fatto tagliando il giorno prima. A me una volta è successo che avevano stretto male il filtro della nafta. Cazzo, mi ha zampillo di nafta, mamma mia. E anche noi che ci ha zampilli proprio. Ho dovuto fermarmi davanti al negozio nostro, mi sono fatto dare la macinella, perché se no facevo. E poi, siccome non potevo camminare, il telefono aveva connesso e ho detto, oh, guarda, così e così. Dice, cosa puoi fare? Mettici qualcosa sotto per non perdere e vieni e vai in officina direttamente. Guarda, in officina c'era il filtro praticamente che perdeva, era difettoso. Quindi non è la colpa manco dei meccanici, ma della casa che l'ha costruito, perché aveva difetto. Oh signor, sono cose che ti fanno perdere tempo quando lavori un casino. Ogni tanto capitano, ma non sempre. Ci mancherebbe altro, capitassero sempre. Allora sì, mi hanno ti suicidi. Può capitare, non è altro. Ma i motori vecchi, cioè, anche questi motori nuovi, ma i motori vecchi andavano sempre, non avevo mai problemi. Io preferivo i motori vecchi, perché questi ogni tanto si accende una spia, si girano le scatole, ogni tanto spia motore, spia di questo, spia dell'altro, la spia delle gomme sbuffie, poi guarda. Io lo so già. Prima andavi sempre, non si accendeva nessuna spia, andavi sempre. A me che fottevi anche i motori, perché magari si accendeva la spia dell'unio quando è quella dell'acqua. Di autobus e camion, cazzo chi sia, che andavano sempre e non ritornavi mai. E allora, questa elettronica ha rovinato tutto. Aia. Ogni tanto ti sente non è via. Controllo. E è così. Così. E poi ogni volta che ci accendono la spia, devi andare dal meccanico per vedere se è questione di umidità o se per caso devi cambiare il pezzo, perché è così. E poi i meccanici dicono, niente, ci sono, guarda, magari è una cazzata che sono a risolvere, tu arrivi, tu non ne comprendi nulla, va e ti danno un segno. Ci sono un po' di disonesti in giro. No, Franco, a me prima di cambiarmelo il pezzo è vecchio. Può darsi che c'è umidità già, io te lo resetto adesso. Vediamo un po' come si comporta, se vedi che lo fa di nuovo me la porti, capito? Non l'ha fatto più. Me l'ha fatto di nuovo. Dopo due giorni che l'ho usata me l'ha rifatto. Quindi? Cambiare bobina. Ah, cazzo, bobina, cosa elettronica, cazzo. Ma l'ha fatta per cagare. E fidati delle macchine elettriche adesso. Poi con l'umidità non c'è tutti i lavori che li devi fare, perché l'elettrico soffre con l'umidità. Ma se dice che nella neve si fermano, guarda il fatto via. Si fermano! Qualche non lo sta facendo così, però la gente racconta anche male, quindi non c'è più niente molto. Allora, dicono che sono isolate bene, tutto quanto fatto bene, però l'umidità è da tutte le parti, cazzo, cioè, anche se sono isolate, guarda le antenne, cazzo, ti metti vulcanizzate e a volte trovi lo stesso umidità all'interno. Vabbè. No, ho visto questa che ho provato, non ha dato problemi. Cioè, dato che non ha fatto molta acqua, non gli ha fatto nulla. Neanche un'euna erano, un'euna sono rimaste, cioè perché io c'è proprio basso, ma non si muove il lago. E venta ce n'era sabato. Come? Venta ce n'era da te sabato. Cosa è invadiuta? E non è invadiuta, lì c'era un ventavirus, perlomeno qua c'era un ventaccio maledetto. Sì, ma non fa niente. E io non so che si doveva. È tutta rivettata. Che qua il vento ha preso i cassonetti, qualcuno l'ha bella buttata in terra, quindi nell'umido li ha buttati in terra. Qualcuno l'ha aperto i cassonetti, ha fatto volare tutta la roba in alto, un casino. Ma non mi fa niente, non mi fa già. Perché la mia antenna è stata che, siccome quella, il modello è vecchio, quello che c'è la sassa di vecchio, allora siccome ti verrà anche i cibiti che non mi biasinano, cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo fatto io e Luca che andavamo piazzata? Non può essere vecchio, domani che si muove, cioè domani che si stacca questa antenna. Ah, li avessi rivetti, potete mettere le viti d'acciaio? I rivetti ci abbiamo messo, e quando si stacca? Vabbè dai, io vi lascio, che sono a portare giù il cane. Vi saluto, saluto a te, saluto a te, è venuto a avvisare. Ma ciao, già, ce la risentiamo. Ma non c'è il problema, anche se ha fatto quel vento, faceva così appena fare la punta, non gli ha fatto nulla, tranquilla, e gli sei in gamba. Ok, ciao, ciao, già, ce la risentiamo. Ciao, buona continuazione, dai, ci sentiamo, ciao, ciao Natalino, ciao a tutti gli amici che sono alla scuola. Ehi, cioè, guarda le foto. Ehi, alle guarda, era in carica al telefono, Antonio, potevo guardarle qui. Ehi, vabbè, Natalino, 21, 10 a 23, se non c'è nessuno.